Incontri di Gianfranco Fabi. Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile. Cambiare tutte le abitudini, eliminare le meno utili e cambiare direzione. Hey! Cambiare marca di sigarette o cercare perfino di smettere, non è poi così difficile. E tenere a freno le passioni, non farci prendere dalle emozioni e non indurci in tentazioni. Questo richiamo al cambiamento, alla voglia di cambiare, alla necessità di cambiare. Molto spesso iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Giampaolo Silvestri. Giampaolo Silvestri è segretario generale di AFSI, ma iniziamo prima di spiegare che cos'è AFSI, perché bisogna cambiare in questo mondo? Ma perché senza cambiamento non c'è possibilità di crescita, non c'è possibilità di vivere bene, non c'è possibilità di essere felici da un certo punto di vista. E nel nostro lavoro il cambiamento è essenziale, perché ecco, noi lavoriamo un po' per cambiare la vita della gente. Il vostro lavoro. Allora, segretario generale di AFSI. AFSI è un'organizzazione non governativa, l'ONG di cui spesso si parla. Spieghiamo un po' dove nasce, come nasce, che cosa fa. Ma allora, prima di tutto, il termine ONG è un termine molto brutto, che noi non usiamo mai, perché è una definizione in negativo, non governativa. E uno nella vita non si definisce per ciò che non è. Normalmente tende a definirsi per ciò che è. Io dico, io sono Giampaolo, no, io non sono Marco. Questo lo diciamo perché appunto noi ci preferiamo definire un'impresa sociale che fa cooperazione allo sviluppo. AFSI è nata più di 40 anni fa a Cesena. Oggi lavoriamo in circa 30 paesi nel mondo, chiaramente nei paesi più poveri, l'Africa subsahariana, il Medio Oriente, alcuni paesi dell'America Latina, la Birmania. Facciamo progetti di cooperazione, facciamo progetti soprattutto nell'ambito dell'educazione, perché crediamo che la vera molla dello sviluppo sia appunto l'educazione, cioè far crescere delle persone adulte, però lavoriamo anche nell'agricoltura, nella sanità, nello sviluppo urbano e poi le grandi crisi in cui oggi siamo impegnati. Quante persone sono coinvolte in AFSI? Siamo a tempo pieno, ma probabilmente anche a tempo parziale come volontario, a tempo determinato per fare delle missioni all'estero per qualche mese. Dunque, in Italia siamo circa una cinquantina di persone che lavorano. A questo però si aggiunge tutta una rete di volontari, quasi 1000, che fanno diverse attività sul territorio italiano di comunicazione, di sensibilizzazione. Nel mondo siamo circa un migliaio, soprattutto persone dei paesi in cui siamo presenti, persone italiane e poi molti volontari che vanno anche a dare un contributo gratuito. Ecco, Giampaolo Silvestri, dicevo, segretario generale di AFSI, come le è capitato di diventare segretario generale di AFSI e non responsabile marketing di una grande multinazionale? Dunque, io ho studiato economia e dopo, mentre mi stavo laureando, ho fatto il servizio civile, che all'epoca era obbligatorio, non era un'opzione, non era pagato, e l'ho fatto all'AFSI. E stando lì ho visto delle persone che avevano un modo che mi piaceva di lavorare, un modo diverso in cui tutto era ricompreso. E quindi ho fatto già alcuni colloqui di lavoro, perché nel frattempo mi ero laureato. Però alla fine ho deciso di rimanere lì e ho iniziato appunto come servizio civile, poi ho iniziato a occuparmi un po' di amministrazione e dopo praticamente 18 anni... Si fa carriera anche in questa organizzazione? Sì, alla fine sì. Ecco, un'organizzazione di questo tipo, come si differenzia rispetto a una normale azienda? Voi siete un'impresa, siete un'impresa sociale, un'impresa che ha degli obiettivi di socialità, di solidarietà. Ecco, quali sono le differenze principali? Perché poi dopo le cose da fare ci sono anche qui, i problemi finanziari ci sono anche qui, i problemi di gestione organizzativa ci sono anche in imprese di questo tipo. Sì, per tanti aspetti è simile, perché anche noi abbiamo dei modelli organizzativi, un organigramma, abbiamo procedure, come una normale impresa, anche noi dobbiamo tenere la contabilità, dobbiamo selezionare le persone, però appunto c'è un qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso è forse un'attenzione alla persona che vale più di tutto, che vale più del modello organizzativo, che vale più della contabilità, che vale, certo, le regole ci sono, vanno rispettate, però questa attenzione alla persona che noi proviamo a aiutare, che proviamo a far crescere più che aiutare, ecco, questa è forse la parola giusta, sia le persone che lavorano con noi. Questo è forse l'aspetto fondamentale. È chiaro che è una sfida perché non sempre ci riusciamo, le difficoltà in cui viviamo sono molte, i cambiamenti che hanno caratterizzato il nostro mondo in questi anni sono stati velocissimi e tantissimi, il mondo della cooperazione è cambiato in maniera radicale negli ultimi 5 anni. E questo ci costringe ad affrontare queste sfide, però puntando sulle persone. Ecco, su quali fronti siete più impegnati in questa visione appunto internazionale di paesi dove cercate di portare dei, non solo dei modelli di sviluppo, ma delle iniziative concrete di sviluppo? Dove siete presenti maggiormente? Beh, in questo momento sicuramente la crisi siriana ci impegna moltissimo. Noi stiamo lavorando sia in Libano che in Giordania per aiutare i rifugiati. Ricordiamo che in questi due paesi ci sono più di 1 milione di rifugiati ciascuno, e quindi sia nei campi profughi, sia nei profughi che stanno nelle case, soprattutto sull'educazione, cercando di far studiare i ragazzi, portandoli a scuola. Teniamo conto che ormai sono 5 anni che queste persone vivono fuori di casa e al momento non hanno nessuna possibilità di tornare al loro paese. Da pochi mesi abbiamo aperto in Siria, abbiamo ottenuto l'accordo per operare in Siria, nella zona di Damasco, e quindi lì la situazione è ancora più difficile, con moltissimi sfollati, con una situazione molto precaria anche dal punto di vista politico, e questa è una grande area di intervento. Un'altra grande area è l'Africa subsahariana, e quindi parlo della situazione del Sud Sudan, con anche lì una situazione in fase di pre-stato di colpo di Stato, del Burundi, dove appunto proprio questa mattina la nostra responsabile ci ha scritto dicendo che tutto il fine settimana sono scoppiate granate, il tentativo di Stato è fallito, e quindi anche lì la situazione è molto difficile. E poi il Congo è un'altra area di grande intervento. Queste, diciamo, sono questo che si stanno occupando più in maniera più radicale. Ecco, quindi fronti di presenza in queste zone a livello di, dicevo appunto, di educazione, di offerta di sostegni, ma in questo modo lavorate anche in contatto, in collaborazione con altre organizzazioni, con le organizzazioni per esempio dell'ONU, di cui si parla tanto, ma spesso rischiano di essere poco efficienti. Che cosa riuscite a avere collaborazioni, riuscite a portare avanti dei progetti comuni? Sì, diciamo, noi lavoriamo con molte agenzie dell'ONU, in particolare occupandoci noi molto di educazione, di infanzia, con l'UNICEF, che è il nostro, diciamo, principale partner in questi paesi, con altre come l'Alto Commissariato per i Rifugiati, il Programma Alimentare Mondiale, la FAO. Allora, diciamo che non è semplicissimo lavorare con queste organizzazioni, sono organizzazioni per loro natura molto burocratiche, non molto efficienti spesso. Però bisogna lavorare con loro, perché comunque sono organizzazioni internazionali e non si può stare al di fuori, diciamo, dell'arena in cui si è presenti. È chiaro che richiede un grande sforzo di risorse umane, una grande pazienza, però è inevitabile. Chiaramente hanno molti limiti, noi cerchiamo di farlo anche presente, cerchiamo di interloquire anche loro, con loro anche a un livello politico, non sempre è facile, però è inevitabile poter lavorare con loro. Ecco, parlato di molti progetti appunto in Siria, in Burundi, in Sud Sudan, forse è sbagliato parlare di soddisfazione, però c'è qualche episodio particolare che gli ha dato una particolare soddisfazione, che ha detto: beh, abbiamo raggiunto un risultato, in qualche iniziativa vostra da portare un po' come fiore all'occhiello? Ma diciamo così, io ho in mente alcune situazioni adesso, prima che mi viene in mente per esempio la situazione della Sierra Leone, dove noi già da molti anni sosteniamo una scuola. Ecco, ma allora la fermo qui. Abbiamo parlato di Sierra Leone, un altro fronte, ci fermiamo un attimo per qualche informazione in più rispetto al nostro programma, ma restate con noi, restate con Giampaolo Silvestri, il segretario generale dell'AFSI. Parleremo di Sierra Leone, parleremo di cooperazione internazionale anche nella seconda parte del nostro incontri. Cambiare logiche è molto facile, cambiare idee è un po' più difficile, cambiare fede è quasi impossibile. cambiare tutte le ragioni che ci hanno fatto fare gli errori non sarebbe neanche naturale. Ancora con Vasco Rossi, con i suoi cambiamenti, con il suo invito a cambiare. Continuiamo il nostro incontro di questa sera con Giampaolo Silvestri, segretario generale di AFSI, un'organizzazione, un'impresa sociale impegnata su molti fronti nel sostegno allo sviluppo in molte zone del mondo. Abbiamo parlato nella prima parte della situazione particolarmente difficile in Siria, in Burundi, in Sud Sudan, ma ci spiegava alla fine della nostra prima parte, anzi ringraziamo chi si è messo in contatto con noi adesso e continuiamo il nostro discorso parlando appunto di Sierra Leone. Diceva di un'iniziativa particolare che ha avuto, possiamo dire così, un certo successo. Giampaolo Silvestri. Sì, 10 anni fa insieme a un'organizzazione locale che si chiama Femino Movement abbiamo fondato una scuola. Questa scuola oggi ha circa 1400 studenti, va dalla scuola primaria, diciamo così, fino alla scuola secondaria. E abbiamo investito molto in questa scuola, soprattutto nel formare gli insegnanti, nel formare le persone che la dirigono. Ecco, dopo 10 anni questa scuola, che è appunto frequentata soprattutto dalle fasce povere della popolazione, non è assolutamente una scuola per ricchi, anzi in una zona molto povera di Freetown, ecco, sono 2 anni che questa scuola è fra le prime 10 scuole della Sierra Leone. Ecco, queste diciamo così sono piccole soddisfazioni. Ecco, ma è una scuola per esempio in cui hanno lavorato anche insegnanti italiani. Che impegno si richiede a un insegnante, a un medico, a un cooperatore che vuole affiancare appunto le vostre iniziative per un certo periodo, non forse per tutta la vita, ma vuole passare un anno in Sierra Leone? È possibile? Come si deve fare? Ecco, assolutamente sì, la Sierra Leone è proprio questo caso, nel senso che in questa scuola hanno lavorato ben 3 insegnanti italiani in periodi differenti, che venivano da scuole italiane, tra l'altro la scuola è gemellata con un'altra scuola italiana in provincia di Bergamo, e queste sono possibilità che noi abbiamo. Richiediamo chiaramente un periodo di tempo almeno di un paio d'anni, perché per favorire lo sviluppo, per far crescere le persone, comunque non è una cosa immediata, bisogna conoscere il contesto, le situazioni, bisogna un po' immedesimarsi in quei contesti. Quindi noi chiaramente richiediamo vari profili che possono essere trovati anche sul nostro sito, però almeno l'impegno è di 2 anni e chiaramente ci sono alcune competenze minime che sono richieste, come ad esempio la conoscenza della lingua veicolare, che in questo caso per esempio la Sierra Leone è l'inglese, oppure il francese a seconda dei paesi. Però sono possibilità che noi abbiamo, sono molto importanti per noi, perché poter per esempio in questo caso mandare giù delle persone italiane, degli insegnanti, ha fatto la differenza. Ecco, in questo senso avete qualche appoggio o aiuto da parte delle organizzazioni governative, cioè il governo italiano può in qualche modo appoggiare questa iniziativa, appoggiare il fatto che una persona spenda 2 anni della propria vita in queste iniziative di solidarietà? Sì, la legge italiana di cooperazione, che tra l'altro è stata appena cambiata, c'è stata una riforma quest'anno, comunque prevede anche la nuova legge che persone che vengono impiegate in progetti di cooperazione finanziati dal governo italiano o da organismi internazionali tipo quelli dell'ONU, se sono dipendenti pubblici possono avere l'aspettativa, se sono dipendenti privati anche il datore di lavoro può dargli l'aspettativa, hanno una serie di benefit fiscali, diciamo così, contributivi, e questo sicuramente favorisce il fatto che uno possa partire per questo tipo di progetti. Ecco, lei parlava appunto di problemi finanziari, di finanziamenti, uno dei temi forti di organizzazione del vostro tipo è anche quello della raccolta di fondi. Voi come raccogliete i fondi per le vostre iniziative? Ma dunque, diciamo così, il nostro bilancio è metà viene da risorse private, cioè da fondi privati, quindi donazioni di persone, aziende, raccolte fondi e quant'altro, e metà da fondi pubblici. Quando parlo di fondi pubblici, quindi sono finanziamenti specifici a progetti specifici, perché comunque noi lavoriamo per progetti, e i finanziatori pubblici sono soprattutto l'Unione Europea, gli organismi dell'ONU, come dicevamo, l'UNICEF e quant'altro, e in piccola parte anche il governo italiano, che su questo fronte negli ultimi anni ha ridotto molto i finanziamenti, anche se nell'ultimissimo anno c'è stata una leggera crescita. Però diciamo metà e metà, 50% risorse private e 50% risorse pubbliche. Ecco, ma le risorse private, molto spesso organizzazioni come le vostre sono accusate di spendere più soldi per fare pubblicità, per raccogliere fondi, che non per poi investire questi fondi in iniziative concrete. Ecco, no, questo noi ci teniamo molto, noi non facciamo pubblicità. Noi non facciamo pubblicità, abbiamo i nostri costi di struttura, sono, cioè quanto costa la nostra struttura in Italia e all'estero, sono intorno al 13%, adesso dipende un po' dagli anni, però diciamo su questa cifra, che è un buon livello se consideriamo che alcune organizzazioni internazionali di cui parlavamo prima arrivano anche al 30-40%, e comunque noi abbiamo deciso di non fare pubblicità su siti, su giornali. Quella che vedete fatta pubblicità è perché o ci è stata regalata oppure era un costo veramente, era gratuita. E noi siamo del metodo vieni e vedi, siamo del metodo cioè di far incontrare le persone, di una raccolta fondi soprattutto basata sul passaparola, e soprattutto se qualcuno ci dà dei soldi lo invitiamo spesso ad andare a vedere i nostri progetti o a incontrare delle nostre persone. Ecco, Giampaolo Silvestri, segretario generale dell'AFSI, allora la raccolta di fondi appunto col passaparola vuol dire che c'è una sensibilità all'interno della nostra realtà sociale, la nostra realtà sociale italiana, di Milano dove voi siete insediati, ma anche siete presenti in altre parti d'Italia, com'è la risposta, diciamo così, un po' della gente a queste iniziative? C'è sensibilità, c'è una crescita di sensibilità verso queste problematiche? Ma direi di sì, l'Italia, gli italiani sono un paese molto, un popolo molto generoso, quando vengono lanciate delle campagne di raccolta fondi per emergenze diciamo che il popolo italiano risponde sempre in maniera molto positiva, da questo punto di vista l'Italia si conferma un paese molto generoso ed è un peccato che questa generosità non sia, come dire, in qualche modo valorizzata dallo Stato italiano anche con una legislazione fiscale adeguata che oggi in Italia invece è molto, sì, molto, molto limitata, molto anche limitata. Se esiste comunque. No, esiste qualcosa, però non è assolutamente paragonabile a quello di altri stati stranieri, penso al modello inglese, americano o quant'altro. Però la generosità in Italia esiste, quando ci sono campagne c'è una risposta sempre molto forte, dobbiamo dire che da questo punto di vista l'Italia fa molto, veramente molto. Ecco, come AFSI lei ha parlato appunto di iniziative, di progetti ovviamente anche a medio e lungo termine, però giustamente adesso richiamava anche le emergenze, ci sono emergenze, c'è stata quella di Haiti 2 anni fa, c'è quella stata quella del Nepal alcune settimane fa, in questi casi avete anche la possibilità di intervenire, è richiesto anche il vostro intervento? Sì, diciamo, noi lavoriamo soprattutto, siamo più in un'agenzia di sviluppo, però in quelle situazioni di emergenza, quando ce lo richiedono, oppure avvengono in paesi dove siamo presenti, come era appunto ad Haiti, oppure in Nepal, perché la Caritas Nepal ci ha chiesto un aiuto, noi interveniamo, lanciamo delle campagne di raccolta fondi, dove è possibile mandiamo i nostri operatori, lavoriamo con dei partner locali, soprattutto nella fase di post-emergenza, cioè successiva, diciamo, alle prime 24 ore, soprattutto per la fase di ricostruzione, soprattutto nell'ambito dell'educazione, quindi scuole, ricostruzione di scuole, formazione degli insegnanti, centri educativi, posti dove i ragazzi, i giovani possano passare momenti ricreativi, riprendere a studiare. Ecco, questo diciamo un po' è il nostro target, però anche in queste situazioni dove possiamo diamo un contributo. Ecco, certamente in situazioni dove c'è un'emergenza dopo un terremoto, dopo una catastrofe naturale, è possibile pensare alla ricostruzione, forse è più difficile in realtà come quella della Siria dove i problemi sono creati dalle stesse persone, della realtà politica, ecco, c'è forse una grande differenza tra queste situazioni? Sicuramente, dove diciamo la crisi è causata dall'uomo, diciamo così, crisi causate dall'uomo, se non c'è un intervento, chiamiamolo politico, ma in senso ampio del termine, è difficile far partire la ricostruzione. La crisi della Siria lo dimostra, queste persone rifugiate in Libano, in Giordania, lì ormai da 5 anni, in questo momento non hanno nessuna prospettiva di poter tornare nel loro paese. Questo è terribile, perché vivere in un campo rifugiati o vivere in una casa in affitto, comunque di fortuna, senza un lavoro, senza la possibilità di lavorare, perché poi questo è il problema grosso dei rifugiati, che spesso in questi paesi non hanno la possibilità di lavorare perché gli è impedito da varie leggi, situazioni eccetera, è veramente una situazione umana difficile. Lì il rischio di che queste persone crescano in un assistenzialismo, cioè comunque aiutate su tutto, quindi crescita anche in una certa mentalità, è altissimo. Quindi il problema si risolve solo con un intervento politico, cioè solo se la situazione in Siria potrà cambiare queste persone potranno tornare, altrimenti è impensabile che 2 milioni di persone, certo, ritornino in un paese in guerra. Ecco, ma in prospettiva sembra che la situazione si diventi sempre più grave piuttosto che andare verso una soluzione, lo dimostra appunto la vicenda siriana, lo dimostrano appunto gli integralisti islamici, la loro conquista di territori, cioè una realtà quella del Medio Oriente che si complica sempre di più secondo una prospettiva meno vista da lontano. Assolutamente sì, i segnali che noi abbiamo è che il regime siriano fa fatica a tenere, rischia di implodere. E non si può vedere un'alternativa, perché purtroppo l'alternativa è peggiore. Se guardiamo al caso della Libia, vediamo che appunto che l'alternativa rischia di essere veramente un'incognita maggiore della realtà, ma anche il caso iracheno e altri casi. Indubbiamente abbiamo fatto come comunità politica, ognuno ha fatto i propri errori, ovviamente, gli americani da una parte, i francesi dall'altra, anche gli italiani probabilmente hanno fatto i propri errori nel guardare a questa realtà, però non c'è stata una mentalità costruttiva, qualcosa che riesca a costruire, si è cercato solo di abbattere negli ultimi anni. Sì, diciamo che le abbiamo sbagliate tutte, tutto quello che potevamo sbagliare è stato sbagliato. Ecco, forse la cooperazione internazionale può dare un esempio di costruire sull'educazione, costruire sulla sanità, costruire sulle cose concrete. Certo, ripartire dalle persone, dalle singole persone, perché comunque la cooperazione e sviluppo è ridare dignità alle persone. Questo è l'aspetto fondamentale. E grazie a Giampaolo Silvestri, segretario generale dell'AFSI, di questo richiamo. Ovviamente la realtà complessiva, la realtà globale è una realtà complessa, però anche perché è complessa richiede il fatto di sentirsi in qualche modo responsabili, anche con un piccolo gesto, anche con una piccola realtà, anche magari stando vicini e sostenendo realtà che si muovono, che cercano di portare con buona volontà un profilo di speranza, dove c'è appunto bisogno di speranza, ma anche di costruire delle realtà concrete. Grazie a Giampaolo Silvestri, segretario generale dell'AFSI, di essere stato con noi questa sera. Grazie anche a Peter Bescapè in regia e a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, l'appuntamento con Incontri è per domenica prossima.